il nome del mio disco. Purtroppo in queste tracce non mi smentisco. Sono sempre il solito rapper socioambientalista, ma che si è incasinato quasi in una rissa, litigando con la gente che mi fissa. Me la sono presa con chi parla Italia, pregando la Madonna per chi sbaglia. Mi sono innamorato, è vero, ma è stato un amore perso nel mio povero sentiero. Ho incontrato fatti di che si incazzano e gente come nei cartoon che ti strapazzano. Sei venuta a conoscenza dei miei amici di quartiere, la mia più basso è l'unico suo grande potere. Ora che nelle mani questo CD fai quello che vuoi, sì, non masterizzare nulla e non fare il pirata. Ti manca la benda all'occhio, nel CD non l'ho incorporata. Stai ascoltando uno dei pochi rapper che si veste largo. Tutti gli altri se ne sono andati in letargo, poche parole, solo fatti. Chissà se riuscirò ad uscire da questa gabbia di matti. Tra stalking e non aver paura, ho preso un pedofilo e l'ho picchiato con una cintura. Allora, il volo di la Madonna che la chiesa non era sicura, ma adesso per una scuola e un asilo fanno paura. E che mi dici di autismo e quella povera signora? Adesso ti state sola. Pronto? Giuseppe, la vuoi sapere una cosa?